Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Farias, tocca ancora per Balzano, gran pallone, Balzano, Ibarbo, grande finta, Ibarbo, 2-1, alla fine va Cossu col destro nel mucchio, colpo di testa, pallone dall'altra parte, il pareggio del Cagliari, gol del 2-2, Farias, Cristian Maggio, eccolo il cross, molto lungo, De Guzman, Ibarbo dentro, ha pareggiato ancora Farias, 3-3. Oh, io mi sono perso, carissimo Carlo Genta. È finita come? Buongiorno a tutti. Finita 3-3. Finita 3-3, e se si arriva una conferma, l'ulteriore conferma dopo il sabato delle due grandi, eccola qui, scodellata dalle negativo. In negativo, sì, scodellata dalle montagne russe del San Paolo, direttamente da lì. Un 3-3 che ci ha detto chiaramente questo pomeriggio che ci dobbiamo rassegnare. So che è difficile, siamo al 23 novembre, ci tireremo fino a giugno un duello tra Roma e Juventus. Tra Roma e Juventus, aspettando che la Juventus lo risolva. In questo momento mi sembra sia tanta la distanza anche tra Juventus e Roma. La Roma resiste, Mira Bergamo non era per niente facile, però insomma due partite che hanno avuto una chiave di lettura diversa, no? Quella dell'Olimpico, la Juventus che ha stradominato e che è in un grande momento, e la Roma che è andata sotto, ha rimontato, ha trovato la vittoria, però dà sempre la sensazione di fare molta più fatica della Juventus, pur con tutte le assenze che ha. Il Napoli invece ha sbattuto via due punti e magari potrà anche questa... È chiaro che la corsa per il terzo posto è che nessuno ha la possibilità di andare a prendere Juventus e Roma, però magari potrà questa battuta d'arresto, perché tale è del Napoli, dare fiato anche a chi arriva da dietro. Visto mai il derby di stasera? No, magari ci rende addirittura divertente il derbino di Milano, derbino, quella cosa lì che celebreremo questa sera a partire dalle 20:45 e che ricorda quello che è stato un tempo nemmeno troppo lontano, il derby di Milano. Beh, guarda, se vincesse il Milan questa sera si troverebbe a due punti dalla zona Champions, vincesse l'Inter a tre punti, e quindi effettivamente il pareggio del Napoli regala qualche motivo di fascino in più. 800 24 00 24, noi vogliamo sapere da casa, beh, intanto il pronostico su come finisce il derby, e lo diciamo subito: chi lo azzecca del primo che telefona domani lo invitiamo direttamente. Cosa a tutti vince? I convocati non si vince niente, no, si vince qualcosa. Cosa? però vogliamo anche un parere sul Napoli, poca roba, poca dai. Roba anche come tenuta psicologica. No, ma poi avevamo detto tutti, il Napoli, che peraltro reduce da una fila di partite positive, e questo non toglie, però arrivi, avevamo detto due settimane fa, benissimo, il Napoli al terzo posto, ha vinto a Firenze, adesso da lì non lo schioda più nessuno, e magari potrebbe farsi venire bizzarra l'idea di guardare la Roma che sta davanti, molto avanti, però chissà mai. Invece oggi giochi con il Cagliari e becchi tre gol, prendi una doppia rimonta, insomma pessima partita quella del Napoli, che ha dimostrato ancora di avere grandi problemi difensivi che sono in qualche modo congeniti, secondo me. Sì, e poi è il copione dell'anno scorso. Anche l'anno scorso in casa, nelle partite contro le medio piccole, il Napoli aveva buttato via letteralmente il campionato, copione che si sta ripetendo pari pari anche in questa stagione. 800 24 00 24, non è solo il Napoli che ha rallentato, perché poi si scorre la classifica alle spalle delle prime e si vede che la Sampdoria non ha vinto, l'Udinese si è fatta raggiungere in casa contro il Chievo. La Sampdoria Cesena, cioè Leali, che è il portiere della Juventus, magari dopo Buffon, ha fatto una partita strepitosa, preso un palo con Soriano, ha praticamente dominato, ha subito un gol al primo mezzo tiro in porta del Cesena, e poi ha sprecato diverse occasioni. Insomma, se andare alla squadra in salute. Sì, aspetta che ti faccio sentire un ragazzino che oggi ha fatto 200, tornato di Natale. Non è un buon pareggio quando guarda una squadra così difficile. Beh, però è una gran giornata per te, 200 gol in 400 partite in Serie A sono numeri pazzeschi, festeggerai? Non lo so, ma questa è una cosa mia personale, voglio ringraziare tutti i miei compagni di tutti i 10-15 anni che gioco insieme con tanti ragazzi, tanti allenatori, tante quelle persone che mi sono state vicine, mia moglie, i miei figli e anche il mio genitore che da su mi guarda. A puntare Baggio adesso non è troppo poco, mancano solo 5 gol. Sì, è un obiettivo che dall'inizio dell'anno, adesso vediamo se riesco ad arrivarci, adesso pensiamo a domenica. Sì, di questo passo prima di Natale, Totò di Natale avrà preso Baggio e chissà chi altro. Noi ringraziamo chi sei mesi fa lo ha convinto a non smettere a fine stagione. Eravamo qui a commentarlo qualche mese fa, l'annuncio, me ne vado, chiuso. La sensazione che non ne avesse più tanto con Guidolin, no? Almeno io ho avuto questa idea. Poi via Guidolin non mi sembra stato molto difficile convincerlo. E ancora fa le fortune dell'Udinese, perché questo continuerebbe a segnare anche a 50 anni. Questo continuerebbe probabilmente lo farà. Parma in caduta libera, decima sconfitta nelle ultime 12. Il Parma va in Serie B. Situazione che si sta facendo pesante, 6 punti, un paio potrebbero toglierli. L'impressione di una barca che sta andando alla deriva. Non credo nemmeno che ragionare oggi su un'eventuale sostituzione di Donadoni possa. Niente. Quando non hai soldi, Giovanni, i giocatori sono professionisti, è inutile che poi ci vengano a raccontare che sono problemi della società, che i giocatori sono tranquilli, realmente tranquillo, non è tranquillo per niente, perché il Parma, la realtà Parma è una realtà sull'orlo del tracollo, è stato dichiarato pubblicamente. L'ultima carta è sempre quella dell'appello ai tifosi. Quando si fa appello ai tifosi è una specie di dichiarazione di morte presunta. Quindi ci sono enormi problemi nella società a Parma e il campo rispecchia fedelmente questi problemi. Non dimentichiamo che è reduce dai 7 beccati sulla Juventus, perde in casa con l'Empoli quando vinci. Cosa abbiamo messo in palio per chi indovina per primo? Matteo dalla provincia di Teramo. Matteo? Buonasera. Eccoci. Pronto? Prego. Prego. Buonasera. Io il mio pronostico è 2-1 per l'Inter. 2-1 per l'Inter. Sì. Credo nell'effetto Mancini sulla squadra. Perché poi il tema della serata è questo, cioè se abbia più effetto Mancini sull'Inter o se valgano più le suggestioni di Inzaghi, che ha detto i derby non si giocano, si vincono. Sì, vabbè, normale, quasi una banalità quella di Inzaghi, peraltro è un'affermazione già sentita. Noi, io credo che l'effetto Mancini sarà importante su questa partita quantomeno all'inizio. È una partita che nessuna delle due in teoria può permettersi di perdere, anche questa è un'ovvietà terrificante, però è la verità. Quindi credo ci sarà anche molta paura in campo, quindi non so se la paura possa fare 90 o pareggio. E magari stasera scopriamo che il terzo posto rimane comunque troppo lontano per le milanesi. Esatto. 800 24 00 24. Stiamo aspettando Benitez, stiamo aspettando i vostri pronostici. C'è traffico? Traffico. Che impressione ti fa sentire ancora dire che tutti facevano come la Juve, ma c'è chi si è ritrovato con uno scudetto in tasca? Avete aspettato me per questa domanda qua? No. Convocati. Allora, c'è chi ci scrive: il derby finisce 0-0, troppa paura di perdere. Questo è Marco che ha scritto 349-238-6666. Laura Vanossi prende nota di tutto, perché poi domani dovete invitare. Ma non ho capito che premio hai messo in palio. Guarda che ce lo metti tu il premio. Il premio è passare qualche minuto al telefono con Carlo Gente per Luigi Pardo domani dalle 14. Aldo Indiana Jones vince il Milan 3-1. Oh, poi c'è anche chi ci sgrida: dice il Cagliari è una grande squadra. Sembrava lei quella da zona Champions. Non ridete, ma questo è calcio con la C maiuscola. Noi non ridiamo. Ha fatto una grandissima partita al Cagliari, però dal Napoli ci si aspettava di più. Sì, grandissima. Poi bisogna sempre intendersi sul concetto di grandissima partita. Certamente il Cagliari è una squadra molto offensiva, è una squadra di Zeman, le dà, le prende. Poi se vi piacciono anche gli svarioni difensivi, questa squadra ne fornisce tanti. Visto il gol di De Guzman, l'abbiamo visto prima insieme. Un cross lunghissimo di Maggio dalla destra, proprio lungo di quelli che normalmente la difesa si piazza bene a respingere. Invece lì arriva De Guzman sul palo opposto, da solo la mette dentro di testa. È chiaro, il Cagliari è così, Zeman fa giocare così le sue squadre. Poi io dico che grandi colpe ce le ha il Napoli. Poi il Cagliari ha fatto la sua partita normale, come fa sempre con Zeman, no? Sentiamo un altro amico, Gabriele dalla Spezia. Gabriele? Ciao. Eccoci. Prego. Come va? Benissimo. Bene. Tu? Io benissimo. Cosa stai facendo? Penso e spero che vinca il Milan 1-0. Perché sei milanista? No, sbagliato, sono juventino. Però mi sta antipatico Mancini. Certo, vecchi ricordi. E spero che Inzaghi faccia la differenza e e rimetta al suo posto Mancini. Sì, tanto per gli juventini, che vinca il Milan o l'Inter, sono talmente lontane tutte e due che nemmeno le vede col binocolo. Sì, ma da qualche anno però. Stiamo parlando di due campionati diversi, per sì, provare a fare l'estrema sintesi. Felipe da Genova, Felipe, eccoci. Sì. Buonasera. Prego. Sì, mi dica. Dica lei. Tutto quello che... No, dica lei. cosa dobbiamo dire? Non so, lei dica. Come finisce, dico... Felipe? Per me 2-4. 2-4 per chi? Per l'Inter. Per il Milan. Allora 4-2. Allora 4-2. Beh, 4-2 per il Milan. Grazie Felipe. Sentiamo Zeman. Dica lei. Dica Zeman. Zeman su Sky. Zeman. Dovrà osare qualcosa di più. Vabbè, per noi è punto importante, penso più per mentalità, nel senso che penso che ci renderemo conto prima o dopo che se proviamo a giocare possiamo mettere in difficoltà tutti. Noi i primi 20 minuti penso che eravamo troppo bloccati, poi il discorso sul gol, su rimessa laterale, è sicuramente brutto prendere gol così, ma è difficile vedere una rimessa così lunga. Assolve i suoi difensori quindi come noi. No, perché penso che non se l'aspetta nessuno, poi dopo è facile parlare, ma non se l'aspetta nessuno che uno butta la palla a 40 metri con le mani in sua rimessa. Senta, due parole forse su Farias vanno spese perché è un giocatore che sta facendo cose molto importanti. Le chiedo quali sono i margini di crescita suoi e quali quelli del suo Cagliari a questo punto. Io ripeto, per me noi ci dobbiamo convincere che dobbiamo giocare a calcio, poi i risultati possono venire, non vengono, però giocando a calcio penso si può competere. Se noi aspettiamo quello che fanno gli avversari, prima o dopo sbagliamo e paghiamo. Gli hanno fatto piacere. Questa è un po' la sintesi di Zeman. Ma secondo te giocare a calcio, prendere un gol su rimessa laterale, Sì, ha preso un gol su rimessa laterale con un lancio da 40 metri. Si è visto anche questo oggi a San Paolo. Però, ripeto, la notizia è che se avevamo lasciato il campionato illusi che potesse esserci anche un terzo incomodo nella lotta per lo scudetto, questo terzo incomodo non c'è ed è tutto ridotto a un duello tra Juventus e Roma. Rigore di Aisha, l'uno contro uno, palla sul destro, non calcia, poi sì, e la mette in porta Adem Ljajic, ancora il serbo. La fortuna di avere in questo reparto la possibilità di scegliere e di mettere in campo degli uomini freschi. Pogba, terzo gol della Juve, show di Pogba, doppietta per lui, Juventus strepitosa all'Olimpico. Ha giocato bene tecnicamente, con i tempi giusti, ha difeso molto bene, si è sacrificato molto bene anche nella fase difensiva. Sì, difficile non pensare a un duello, Giovanni Galeone, ciao mister, buon pomeriggio. Ciao. Abbiamo avuto la conferma questo pomeriggio che ci tireremo fino a giugno il duello tra Juventus e Roma. Ma non lo so, se la Roma tiene, sì, lo vedremo fino a giugno, una terza incomodo non lo vedo. Anzi, Napoli rischia anche di non arrivare terzo se fa partita tipo quella di oggi. Ha ragione Zeman quando dice che il calcio è non aspettare gli altri, o ha ragione se poi trova davanti una squadra come il Napoli capace di buttare via tutto come oggi? Ma secondo me non ha tanta ragione Zeman. Io credo che Zeman fosse unico nel disporre la difesa in quella maniera così pericolosa. Ma oggi ho visto che anche Benitez, insomma, non è che scherzo. Tra tutte e due è stata, secondo me, poi dicono che è stata una bella partita. Secondo me è stata bella per niente, mister. È stata la dimostrazione di come lo si fa a difendere. Ecco. Nel Napoli tra Koulibaly, che tra parentesi ultimamente aveva fatto anche delle buone partite, a maggio ne hanno combinate di tutti i colori. Guardate i gol, il primo gol, ma a maggio gli parte da dietro la schiena, in mezzo lì, e Koulibaly sulla finta di Barbo si siede per terra, cioè sul gol, sul terzo, quello di punizione, sul ponte di testa. Ma questi sono errori di singoli o è una questione anche di preparazione di reparto? Anche reparto, sia singolarmente che di reparto, perché poi Koulibaly ha perso una palla stupidamente cercando un dribbling. Ma com'è possibile che in un anno e mezzo di lavoro un allenatore esperto, bravo come Benitez, non riesca a correggere questi errori? Ma veramente io il Napoli così male in difesa non l'avevo mai visto, non credevo potesse venire fuori una partita del genere, soprattutto sul 2-0 per il Napoli, il Cagliari sembrava non esistesse. Poi invece alla fine del primo tempo ho cominciato a giocare, Zeman si sa, Zeman fa delle cose splendide davanti, propone delle soluzioni da sempre, da 22, 25 anni a questa parte. Tutte le sue squadre nella fase offensiva sono sempre state molto brave, nella fase difensiva secondo me continua ancora a giocare con nel 1972 con i fuorigiochi, con le robe lì, non credevo che anche Benitez facesse così, ma guardate che ho visto anche le altre partite, la Fiorentina contro il Verona, quello che ha fatto Nico Lopez, mamma mia, ma fanno fuorigiochi sulla metà campo, questi qui sono matti, non lo so io. Sì, è anche difficile, io non ricordo di aver visto in Serie A prendere un gol come ha fatto il Cagliari su rimessa laterale, poi Zeman ha detto ma non sapevamo che questo tirava le rimesse laterali di 40 metri, ma come non lo so, andatelo a vedere se non l'avete visto. Sono più di 40 metri perché lui è sicuramente 20 metri prima della metà campo e Higuain tocca la palla la prima volta a 20 metri, a 30 metri dalla porta avversaria, quindi in mezzo ai due centrali, insomma non è possibile. Abbiamo visto anche questo, meglio Allegri, meglio Allegri con la Juve, il suo pupillo, il suo amico, il suo ragazzo, sì. Io credo che quest'anno stia vivendo, almeno per il momento stia vivendo, la stagione della consacrazione, per come l'ha iniziata con grande umiltà e intelligenza questa stagione sul solco di Conte. Poi nel momento più difficile ha disegnato la sua prima Juventus, e questa Juventus credo vada incontro alle partite decisive in Champions e corre il rischio, l'ho sottolineato prima, di scavare un fossato molto profondo con la Roma già prima di Natale. Ma io lo spero per Max, mi è piaciuto molto ieri, soprattutto con l'espulsione di Padoin. Che ha fatto entrare il ragazzetto, cioè ha ribadito il fatto di voler giocare a quattro dietro, perché lui aveva Lichtsteiner, Chiellini e Bonucci, avrebbe potuto giocare a tre, tenere dentro Pereira e magari tirare via Tevez, non so, e quindi coprirsi a metà campo con cinque centrocampisti e una punta sola con Morata. Invece non l'ha fatto, ha tirato via Pereira, che tra parentesi era stato il migliore, sicuramente tra i migliori, e ha ribadito il fatto di voler insistere sul concetto di giocare a quattro dietro, fare una formazione a mio avviso molto più europea di quella che era la formazione di Conte. A Milanello qualcuno si starà mangiando le mani pensando a come è andato via, non tanto per il fatto che fosse finita la storia con il Milan, ma al modo in cui Allegri è stato cacciato con l'etichetta di allenatore che non aveva idee, che non aveva coraggio, che non aveva carattere, incapace di trasmettere carattere alla sua squadra. Beh, il primo anno io credo che abbia dato una grande dimostrazione di carattere, anche perché è riuscito a privarsi di Ronaldinho, che era stato poco tempo prima definito il miglior giocatore del mondo da parte della proprietà proprio, quindi già lì aveva dato una dimostrazione di carattere e aveva vinto lo scudetto. Dopodiché, a mio avviso, io sono sempre del parere che il calcio italiano ha avuto una svolta quando non è stato comprato Tevez dal Milan e non è stato venduto Pato. Sì, poteva cambiare la storia di quel campionato e non solo. Ma non solo di quel campionato, perché sicuramente avrebbe vinto il secondo campionato, perché da gennaio in su Pato non ha fatto niente, non ha giocato mai, ha fatto una partita o qualcosa del genere. E con Tevez, con 6 punti di vantaggio sulla Juve, il Milan avrebbe stravinto. C'è anche chi ha notato che in quei mesi la Juve prendeva Pogba, unico giocatore di Mino Raiola non finito al Milan di Galliani. Pensate come sarebbe cambiata la storia. Sarebbe cambiata sì la storia, perché poi quando vinci due scudetti di fila, Ibrahimovic non va via, Thiago Silva non va via, e Ibra e Tevez formano una coppia formidabile di attaccanti, unica, fantastica, giusta. Capisce che cambia tutto il calcio. Certo. Come finisce questa sera il derby? Questa sera io sono nato interista, perché da bambino, da ragazzo, da giovane ho avuto la possibilità di giocare con tanti interisti, da Buchi a Facchetti, a Corso, nelle varie nazionali, Mascalate, eccetera, eccetera, nei giovanili, no? Poi adesso ultimamente, dopo che Max soprattutto era andato al Milan, ho avuto l'opportunità di andare a Milano. Si è trasformato in milanista. Quindi stasera? Insomma, io sono dalla parte del Milan. Quindi vince il Milan. Grazie, ma, mister. Spero che vinca il Milan. Non lo so. Vediamo. Grazie mister. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie Giovanni Galeone. Grazie Giovanni Galeone. 800 24 00 24. Noi aspettiamo Benitez, così magari gli chiedono qualcosa del suo schieramento difensivo. C'è la pubblicità. Il presidente è sempre molto carino e rispettoso e non pretende mai nulla, anzi è sempre prodigo di consigli per me, per i giocatori, perché dall'alto della sua esperienza ce li può dare. Convocati. È arrivato anche Pierluigi. Ciao Pier. Ciao Larrosino, buongiorno. Ciao Guardo. Tutto bene? Tutto alla grande. Tutto bene? So che sei a casa. Sì. Sei che sei a casa, Roma, ieri sera hai commentato la straripante Juventus. La migliore Juve della stagione. Arriva bene ai confronti decisivi di Champions. Bravo Allegri. Sì, ma soprattutto se dobbiamo capire se questa difesa 4 è veramente una rivoluzione, come canta. Perché quest'albo è una rivoluzione, no? Bruno Risas, sì. Roba di grande livello. Perché quest'albo è una rivoluzione, perché bisogna capire se questo 4-3-1-2 è una rivoluzione. Perché la tentazione, tanto per continuare prima, c'è. Mi sembra che quello che la Juve ha fatto vedere nelle ultime 2-3 partite sia abbastanza clamoroso. Le partite le vinceva anche prima, però mi sembra che la forza, l'autorità e la qualità del gioco che si è vista per esempio ieri dopo il 7-0 col Parma, che vabbè, potrà aver avuto un significato relativo, sia una conferma, e mi sembra che siamo passati alla fase 2, quella nella quale Allegri sta cominciando a giocare come vuole lui, dopo una prima fase nella quale invece aveva scelto la continuità con i trionfi di Conte. Sì, è una questione tecnica e emotiva. Sì, anche se a me ieri ha impressionato anche la Roma, che non ha giocato bene, ha rischiato tantissimo all'inizio e alla fine, però ha portato via 3 punti da un campo pesantissimo e mi dà l'impressione di stare attraversando il momento più difficile della stagione per mille motivi, a partire dagli infortuni, un po' di condizione, eppure pur con quella condizione lì e con quegli infortuni è attaccata una Juventus che sta correndo come l'anno scorso e non era facile. Oh, aspetta Pier, che sentiamo insieme Benitez. Benitez. Mi piace attaccare e sempre, questo è bello per il calcio. Allora, restiamo su Zeman, ha dato la sua versione su quello che secondo lui manca al Napoli in questo momento, facendole comunque i complimenti, insomma un regista più avanzato rispetto a Koulibaly, al ruolo che ha fatto Koulibaly, vero? Oggi non avevate Jorginho, lui il giocatore che può e deve fare questo lavoro. Sì, io preferisco parlare io di quello che le manca al Napoli e non di quello che le manca al Cagliari, per esempio. E basta, quindi non è, si è già rotto questo feeling con Zeman con questa risposta. No, ciascuno ha, io so che lui è così, ma io parlo della mia squadra e non parlo dell'altra squadra. Allora, sì, stiamo a fare polemiche, credo Piero un po' di retroguardia, la notizia del pomeriggio è che il Napoli non si iscrive nemmeno quest'anno alla corsa per lo scudetto, poi dopo Benitez se la prende con Zeman, possiamo star qui a dire qualsiasi cosa, però la notizia è quella. Sì, il Napoli fa un triplo carpiato all'indietro, questa doveva essere la giornata nella quale recuperava punti, l'avevamo detto, tra l'altro credo che ha fatto 0 finora con i pronostici, forse 1, quindi insomma diciamo che io ci capisco poco, ma è stata anche una giornata abbastanza sorprendente con fino a questo momento 2 pareggi, 6 vittorie esterne, nessuna vittoria in casa. Sì, io credo di aver preso la vittoria del Sassuolo. Stavo dicendo io, se ricordate bene. Ha indovinato per altri motivi la vittoria del Sassuolo a Torino. Sì, esatto. L'aziendalismo delle volte paga, no? Esatto, a parte le battute del Sassuolo, che io l'ho vista, Torino Sassuolo, la partita che poteva vincere, poteva perdere e poteva anche molto più probabilmente pareggiare, ma insomma sta in salute, sesto risultato utile consecutivo. Tornando al Napoli, mi sembra che si siano rivisti dei vizi proprio capitali di questa squadra, che dietro balla, e finché continuerà a ballare in questa maniera, secondo me concluderà poco, soprattutto nelle competizioni di continuità, cioè soprattutto nel campionato, perché l'abbiamo detto mille volte, il campionato chiaramente è una corsa a tappe, è una maratona dove dove gli errori te li porti dietro. Non puoi la settimana dopo con una grande prestazione, il Napoli le sa fare, ce l'ha fatta vedere per esempio contro la Roma, non è che riesci la settimana dopo con una grande prestazione a cancellare quello che era successo prima. I punti che man mano hai accumulato di ritardo te li porti dietro, e quindi io credo che oggi la tentazione di dichiarare chiuso il campionato, nel senso di sfida a due, sia una tentazione molto forte. Poi è chiaro che è una maratona lunghissima. Sì, ma sono 9 punti. È la fotografia, più che la tentazione, la classifica 9 dice... 9 punti del Napoli dalla Juve. Juventus 31, Roma 28, Napoli 22, Sampdoria 21. Comunque finisca il derby questa sera, nessuna può andare oltre. Poi è vero, c'è il Genoa che in questo momento è quinto, quota 19, che gioca domani, però la sensazione è che se tutto va bene si vada a un duello, se tutto va bene, a meno che la Juventus non saluti la compagnia. 800 24 00 24, Antonio da Rimini che sta aspettando da qualche minuto. Antonio? Sì, buonasera. Prego. Ma volevo spendere una parola a favore della Roma, perché ho sentito dire che il divario è solo di 3 punti, ma che probabilmente il campionato finirà prima del previsto. Ma la Roma sta giocando praticamente senza difesa da inizio campionato e forse con 2 ex giocatori che sono De Sanctis e Cole. Credo che oggi in Italia non si possa rinunciare nessuna squadra a giocatori come Castan e Maicon. E quello che ho visto io nello scontro diretto non è stata una Juventus che ha dominato, anzi una Juventus che è stata un po' anche aiutata, no? Se vogliamo dire così. È una Juventus che a 20 minuti dalla fine era fuori dalla Champions, poi con 2 rimpalli è ritornata dentro, poi onore a loro, ma credo che... Però mi sembra che qualcosa sia successo nel frattempo, soprattutto alla Juventus, mi sembra che la Juventus sia molto cresciuta. Troppe altre cose succederanno, Carlo, questo va detto, cioè, è chiaro che noi siamo qui ogni giorno a dover commentare qualcosa e ci facciamo prendere inevitabilmente dalla necessità di dover fare dare dei giudizi, e in alcuni casi questi giudizi sono anche in qualche modo condizionati dall'aspetto emotivo, da quello che vediamo. È chiaro che la Juve vista ieri è difficile pensare che possa non autorizza grandi sogni, non arrivare in fondo, ma la Roma, tanto per fare un esempio di cui parleremo nelle prossime ore, la Roma vista all'andata col CSKA, non puoi neanche pensare che giochi lo stesso sport dei russi, eppure i russi sono tornati prepotentemente in corsa. La verità è che sono competizioni lunghe. È vero quello che dice l'ascoltatore, secondo me la vittoria della Roma di ieri è una vittoria pesantissima, ed è vero che Castan manca tantissimo, è vero che Maicon è importante da recuperare, che De Sanctis sta scricchiolando, che Cole non si è inserito, però il punto è capire se queste situazioni verranno risolte o no, perché qui questa è la vera domanda. Castan gli auguriamo ogni bene ovviamente, ma se ci sarà, ce lo auguriamo, sarà un ritorno molto... molto in là, quindi un giocatore sul quale quest'anno la Roma difficilmente potrà fare affidamento. Cole è tutto da vedere, Maicon comunque ha una carta d'identità di un certo tipo, insomma le incognite ci sono, però il campionato ci regalerà 1000 ribaltoni ancora. Insomma, sì, è anche vero che Garcia sta pescando dalla panchina delle energie non attese, credo. Alla vigilia di questa stagione. Ieri abbiamo visto anche questo ragazzino Somma, c'erano un altro paio di ragazzini, c'è un giocatore incostante, ma che nella sua incostanza poi può, come ieri, decidere la partita con quel colpo che ha rimesso la Roma in carreggiata dopo un inizio parecchio difficile. Sono colpi che questa Roma ha, che questa Roma si è costruita. Ho l'impressione che Garcia abbia in mano le istruzioni su come usarla questa squadra, al di là delle difficoltà fisiche, Pierre. Sì, ma assolutamente, la Roma ha tantissime soluzioni, la Roma è fortissima dal punto di vista della quantità di giocatori, è una squadra che ha molte risorse in più rispetto a un anno fa, ha qualche scricchiolio in più, sicuramente, insomma, l'anno scorso una delle forze della squadra era la solidità difensiva, la solidità si basava su una coppia che era Benatia Castan, uno è partito, l'altro in questo momento ha cose più importanti a cui pensare, e ribadisco il grande in bocca al lupo. E quindi insomma è ovvio che qualche scricchiolio ci sia. De Sanctis non sembra sicuro come nella passata stagione, poi c'è la forza della squadra, poi c'è un giocatore come Nainggolan per esempio che ieri ha preso per mano la squadra nel momento più difficile, c'è Ljajic, ci sono giocatori come Ljajic e come Destro che sono giocatori discontinui, ma che alla fine, se andiamo a guardare i numeri, già hanno pesato e come in questo campionato. Quindi la strada è molto lunga. C'è stato un momento in cui la Roma sembrava più sicura della Juve è più bella della Juve. In questo momento sembra più bella la Juve, però insomma il viaggio è veramente molto molto lungo, quindi aspettiamo prima di arrivare. Sì, fortunatamente siamo soltanto alla 12ª giornata. 800 24 00 24, noi aspettiamo ancora i pronostici sul derby di questa sera, con ricchi premi in palio. Cioè, i premi di domani. No, tra le cose pazze che sono capitate questo pomeriggio, è successo anche questo. Iniziamo da quella più clamorosa, ovviamente, il rigore di Sanchez Migno. Era designato Sanchez Migno o doveva tirarlo Quagliarella? No, era designato Quagliarella, però ha ritenuto di cederlo a Sanchez, stava attraversando un momento così, ha detto cerchiamo di recuperare il giocatore nella speranza che la buttasse dentro. Purtroppo da un lato è stato un bel gesto, ma dall'altro non ha pagato, quindi pazienza. Come si fa a sbagliare 5 rigori consecutivi, come ha fatto il Toro in campionato? Decidono anche i giocatori, fanno gli psicologi, dobbiamo recuperare il ragazzo, sì, intanto perdi punti. 21esima giornata l'anno scorso, Immobile contro l'Atalanta, poi il rigore famosissimo di Cerci a Firenze, quest'anno l'Arrondo contro l'Inter, partita poi pareggiata, e il Cadduri contro il Verona, partita persa, oggi Sanchez Migno contro il Sassuolo, partita persa, e contestazione per Ventura e per il Torino. Pier, mi ha molto colpito il momento in cui Ventura ha detto, dopo 2 minuti già c'era chi diceva vergogna e ci fischiava. Mi ha ricordato qualcuno che questa sera non sarà in panchina, in un altro stadio. Difficile giocare in queste condizioni. Esatto. Va ricordato innanzitutto che il Torino invece un rigore pesantissimo l'ha segnato in Europa League, ed è il motivo forse dell'arrabbiatura di Ventura al 91esimo contro il Copenaghen, il rigore decisivo che si è procurato e che ha segnato Quagliarella, quindi questo forse acuisce, diciamo, il dolore per ciò che è avvenuto oggi. E sicuramente non c'è il clima ideale, il Torino viene da una brutta sconfitta ad Helsinki e giovedì si gioca molto nel suo cammino europeo, che per me è una cosa decisiva nella stagione del Torino, perché difficilmente il Torino, adesso qui ognuno faccia i provvedimenti, rischierà, nonostante la classifica non sia bellissima adesso, e difficilmente potrà pensare di lottare per la Champions, addirittura per l'Europa League. Quindi l'Europa League che ha a disposizione, io credo che proprio lo dice anche la logica, è la competizione in questo momento quasi più importante. E penso che giovedì sarà una sfida importante e delicatissima, quindi bisognerà capire con che clima ci si arriverà. Certo, insomma, Torino viene da annate complicate, è tornato in Europa quest'anno, però nel calcio, che come sapete è materia liquida, tutto si dimentica rapidamente, quindi la gratitudine, la felicità per essersi lasciati alle spalle il peggio viene rapidamente cancellata. E in questo momento la squadra non sta brillando e si dimentica anche come si tira un rigore o anche 5. Traffico. Quella è un'altra storia, è abbastanza incredibile, sì. Vecchio proverbio boemo dice: se Maometto non va alla montagna, Maometto ascolta tutti i convocati weekend. Tutti convocati. Vedi che pareggia e comunque gol fatto è un'autorete, non è positivo, ma questa è una cosa che, diciamo, da unica cosa che non riusciamo ancora a migliorare rispetto all'anno scorso, perché siamo molto cresciuti come individualmente, ma anche come squadra, come mentalità, ma ancora fuori casa ci manca un po' di personalità, e quando ci capitano queste occasioni bisogna buttarla dentro. Lo stesso successo a Cagliari, dovevamo chiudere la partita, arrivati alla fine pareggi, ecco, ma questi sono i 4 punti buttati via. Sì, un po' deluso Mihajlovic, però questo dimostra anche che tipo di carattere abbia e quale sia il suo obiettivo. Sampdoria, che resta lì in questo momento al quarto posto, nessuno la può insidiare. Certo, avesse vinto a Cesena staremmo parlando come meritavano di una Samp in zona Champions. 800 24 00 24. Pier, però io non posso non coinvolgerti sul tema della settimana. Ti faccio sentire Andrea Agnelli. Vai. Luciano è venuto con i suoi nipotini e rappresenta anche una parte molto bella e importante della nostra storia, quindi se uno, noi siamo il paese del cattolicesimo, siamo anche il paese del perdono. Oh, questa parola qui è perdono, Moggi non l'ha presa benissimo. Meglio non confondere le idee, Io ringrazio Agnelli quando dice perché Mozzi rappresenta una parte bella e importante della nostra storia. Questo praticamente è una delle poche volte in cui si è sentito dire una cosa del genere, no? Dobbiamo guardare tutto il discorso per dare un senso al discorso, perché se si estrapola la parola perdono diventa un problema. Il perdono Mozzi non ha bisogno di perdono. E questo invece era Luciano Moggi, 800 24 00 24. Aspettiamo anche da casa che ci dite che cosa ne pensate. Pier, pensa cosa sarà il 22 gennaio, giorno della sentenza in Cassazione? Ma sì, insomma, diciamo prepararsi con gli scudi. Ma sì, però poi si va avanti, insomma, mi sembra che la vita sia andata avanti, quella della Juve è andata molto molto bene, anche se mi sono reso conto per esperienza personale, anche semplicemente da uno studio di Tiki-Taka, che Calciopoli è una di quelle discussioni dove basta buttare veramente un cerino, basta dire Calciopoli. Aspetta, basta dire Calciopoli. Chiedo scusa, Pardo, Capuano. Oggi. No, diciamola così, non facciamo ancora Moggi. Non farò lo spiritoso. Sì. Non farò lo spiritoso. Non creiamo sterili polemiche. È meglio non confondere le idee. Mm. Bisogna vedere il senso del discorso. Sì. E non estrapolare. Il senso del discorso è che Agnelli ha detto che si può perdonare Moggi, giusto Pier? Sì, e quindi si perdona qualcuno che ha fatto qualcosa, no? Scusami Pier, ma bisogna stare attenti a dire certe cose. In questo modo si generano solo sterili polemiche e sensazionalismo avventato, questo non va bene. E voi lo sapete, ci giocate sopra, non va bene così. Sì. No, che ci giochiamo. Ha detto quello, i giornali hanno fatto il titolo, ha detto anche altre cose. Agnelli ha detto che c'era un sistema, c'erano le cene, e alle cene con gli arbitri ci andavano tutti. No, scusami tanto, sì. Capuano, no, qui bisogna dire, se tu estrapoli solo la parola perdono, diventa un problema. Agnelli dice che io rappresento una bella parte della storia della Juventus e c'era un sistema Italia. L'abbiamo detto, no? Appunto, c'era le cene di Natale, le cenette tra dirigenti ed arbitri con scambio di prosciutti e anche di schede telefoniche. Comunque la parola perdono non è che l'abbiamo inventata noi, l'ha detto Agnelli. Agnelli. No, Capuano, Moggi non ha bisogno di perdono perché non ha mai fatto nulla di male. No, Moggi è buono come la mostarda, tu Pardo non fare dell'umorismo. Però la mostarda, io ti sento Tiki-Taka. Guarda che Agnelli dice che c'erano 20 società che si scambiavano pensierine natalizie, che era un sistema ammesso e che lui può perdonare Moggi ma non l'Inter, che si è messo in tasca uno scudetto senza Poi c'è un processo che dice che c'erano anche, c'era l'associazione, c'era la rete, c'era scusami Capuano. Ma se non ci sono le reti nel campionato italiano, ma di che cosa stiamo parlando? Sì, vale tutto. Nulla. Salve direttore, arrivederci. Arrivederci. Quanto ce lo tiriamo avanti? Luciano Moggi, ma per tutta la vita, era Andro Mercù, diciamo. Ha ragione Pardo, basta dire Calciopoli. E anche tra 20 anni verrà giù il mondo. Noi a gennaio faremo uno specialone, vero? No, te lo puoi scordare che facciamo uno specialone. L'ho capita con un certo ritardo, insomma. Sì. Che cosa non hai capito? No, dopo però, Pier. È veramente, per quanto riguarda Juve e Inter, sì, è proprio tutti contro tutti, nel senso che gli interisti sono arrabbiati perché rivendicano un primato morale. Sapete che la categoria della moralità, dell'onestà, anche in questi giorni sarà tirata fuori per e gli juventini questa cosa qui, insieme ai due scudetti, insieme a tutto il resto, evidentemente non l'accettano. Pier, però stai lì, abbiamo il GR Betcon e poi torniamo. Quote e pronostici. Questa sera luce a San Siro con il derby della Madonnina tra Milan e Inter, che vale parecchio anche in chiave terzo posto. Vediamo assieme le quote sniper questa partita. L'1, la vittoria del Milan, è quotata 2,80, l'X è a 3,20. Il 2 invece, con la vittoria dell'Inter che è favorita grazie anche all'arrivo sulla panchina nerazzurra del tecnico Mancini, è quotata 2,60. Interessante anche la quota del gol a 1,75, mentre il no goal è quotato 1,95. È possibile per questo match indovinare anche il il nome del primo marcatore nel Milan, spicca il nome di Fernando Torres, quotato 7, Pazzini e Sharawi Jimenez sono quotati 10, Ondà e Bonaventura sono quotati 12. Nell'Inter invece il favorito a segnare per primo è Mauro Icardi, quotato 7, Palacio, colui che decise l'ultimo derby con un gol di tacco, è quotato 8, Kovacic 10, Guarin ed Hernanes 15, derby deciso da un'autorete, quotato 25. Diamo un occhio infine alla Liga con la gara tra la capolista Marsiglia e il Bordeaux, si gioca al Velodrome con il calcio d'inizio alle 21, 1 quotato 1,60, X a 3,75, 2 invece quotato 5,75. Questa era l'ultima delle quote snelle di oggi, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Derby, l'ho sentito dire tante volte, il derby non si gioca, si vince, e per noi deve essere così. Io non sono abituato a lottare per il terzo posto, insomma, quindi questo mi demoralizza un po'. Sappiamo che ci sono anche gli avversari, abbiamo grande rispetto per l'Inter e per il proprio allenatore, però cercheremo di dare una bella soddisfazione ai nostri tifosi che ne hanno bisogno. La sa che gioca contro l'Inter in un derby, quindi in un derby, il derby è aperto a qualsiasi risultato, al di là del cambio di un allenatore, saranno in campo giocatori bravi e quindi la speranza di tutti e due è quello di vincerlo, però insomma in un derby può accadere di tutto. Sì, del grande derby di Milano, 800 24 00 24, siamo qui a raccogliere i vostri pensieri, poi in realtà potete chiamarci su tutto, anche sulla domenica di Federer e di Lewis Hamilton. Nel grande derby di Milano è rimasta la cornice, 79.173 biglietti venduti, e l'incasso 3.324.594 euro, buttali via. Presi 4. È stato visto Gagliani festeggiare a casa Milan oggi a pranzo, incasso record, non dubbi. Che sicuramente fa bene alle casse del Milan dopo una prima parte di stagione con San Siro. Quanti mezzo vuoto. Quanti ha portato Mancini secondo te? Ma secondo me Mancini non più di 1.000, 2.000. Beh, ma anche perché è un derby in casa del Milan, e quindi questo è, io aspetto al varco le migliaia di interisti che hanno detto si sarebbero abbonati per l'arrivo di Mancini. L'hanno fatto? Vediamo da domani, non lo so. Vedremo a Inter Udinese quando l'Inter torna a San Siro da padrona di casa. Pier, ci sei? Sì, ci sono. 800 24 00, di più cosa? No, che secondo me sono più di 1.000. Ti ha portato Mancini? Ma guarda, io penso che veramente la curva della squadra in trasferta al derby, sì, non piena, non l'ho mai vista. Sì, però è cambiato completamente l'impatto e l'importanza di questa partita, la suggestione di questa partita, anche se poi guardando la classifica ha ragione Mancini, insomma, a sentirsi così anche un po' frustrato a lottare per il terzo posto, forse al momento si lotta per il quarto, il quinto, il sesto, insomma, però sicuramente è cambiata la percezione nell'immaginario. L'evento è cambiato e quindi Gagliani, secondo me, al di là della percentuale dell'incasso che deve essere data alla squadra ospite, insomma, una bottiglia di champagne a Torino deve regalargliela, perché questo cambio di panchina sicuramente dal punto di vista commerciale ha fatto sì che l'atmosfera sia cresciuta, e secondo me il dato di stasera è un dato assolutamente figlio di quello. Manca la controprova, ma secondo me almeno 10.000 spettatori più ci sono. Sono d'accordo, anche secondo me, magari anche milanisti che sono stati attirati e attizzati dal ritorno di Mancini, assolutamente, cioè ha ridato a questa parte. Guarda, ma io lo vedo, noi telecronisti insomma siamo abituati a valutare le partite, no? A metterle in ordine, a dare una gerarchia, prima dell'esonero Milan-Inter secondo me quasi se la giocava con Lazio-Juve come rilevanza, no? Oggi è chiaramente la partita migliore del weekend, e questo secondo me è dovuto al fatto che è arrivato Mancini e ha innestato un meccanismo che è un meccanismo, ripeto, mediatico, di suggestione di un certo tipo. Si è parlato moltissimo di derby nei giorni scorsi, se ne sarebbe parlato comunque, ma secondo me molto meno, e va bene così. Stasera nei momenti di crisi, nei momenti di difficoltà, e questo è oggettivamente un momento di crisi del calcio italiano, della città di Milano, anche dal punto di vista calcistico, purtroppo abbiamo visto non soltanto calcistico, c'è bisogno di una scossa. Poi è ovvio che l'effetto rischia di essere limitato, però stasera sera, secondo me quella scossa c'è. Sì, partita che mette pressione di classifica, credo a tutti e due, perché noi abbiamo raccontato per 10 giorni la crisi dell'Inter, l'esonero di Mazzarri, la scintilla, la scossa che vedremo se arriva questa sera di Mancini, facendo finta di dimenticarci che Inzaghi viene da 3 punti nelle ultime 4 partite, che la classifica del Milan non è che sia poi così meglio di quella dell'Inter. Partita che questa sera mette molta pressione, credo, Pier, perché ad esempio dovesse finire con la vittoria dell'Inter, secondo me da domani qualche ragionamento su Inzaghi e sul Milan sarebbe legittimo. Ma assolutamente, assolutamente, questa è una partita che mette in fila, nel suo piccolo è uno spareggio su chi è la milanese migliore, nel senso che poi chiaramente il campionato avrà altre 26 giornate e ci regalerà molti altri ribaltoni, però fino a questo momento ci abbiamo capito poco, perché sono due squadre fino a questo momento imperfette, due squadre discrete, con delle qualità, con dei talenti che si sono intravisti, con qualche buona partita, penso a Parma-Milan ad esempio, il primo tempo del Milan a Parma eccezionale, o all'Inter comunque delle prime giornate, quella che ha vinto facilmente col Sassuolo, che ha vinto con l'Atalanta, che sembrava destinata verso un certo tipo di strada, e poi con dei clamorosi ribaltoni come Parma-Inter e Milan-Palermo, tanto per stare due nomi. Quindi sono due squadre ancora abbastanza in costruzione e stasera nel tentativo disperato di dare una forma a tutto ciò che è sotto le prime due, che abbiamo capito che sono quelle, insomma questo è uno spareggio importante, che in più si porta tutte le suggestioni del derby e tutte le suggestioni di un nuovo vecchio allenatore come Mancini. No, che poi anche a Roma insegnano come nelle stagioni di basso profilo, di bassa classifica o di classifica non appagante, anche il derby diventa ancora più importante, no? Perché diventa il modo per salvare la stagione, o per salvare l'inizio difficile, per ritagliarsi un pochino di credito e di tranquillità. Il derby è stupendo, il derby è stupendo, e paradossalmente, come dice giustamente Carlo, più si va male e più diventa importante, cioè è un paradosso. A Roma ci sono stati anche i derby, quelli dello scudetto, no? Negli anni in cui le cose andavano in un certo modo, a Milano c'è stato un derby semifinale di Champions League, è ovvio che sono cose straordinarie, però anche negli anni duri, negli anni difficili, paradossalmente il derby prende ancora maggiore rilevanza, con il rischio che possa diventare il derby della paura, quindi bloccato, ma io non credo. Io penso che sarà, io penso che sarà una partita, è ancora molto presto nella stagione, ci sono troppe suggestioni, Inzaghi si sente bravo, molto probabilmente lo è, e vuole vincere. Sì, lo ha anche un po' punzecchiato Mancini, che ha detto quando inizi tu pensi che tutto quello che hai in mente sia giusto, quando inizi poi dopo, questo non lo ha detto Mancini, lo ha lasciato far capire, lo ha lasciato intendere, poi dopo evidentemente ti accorgi che non tutto quello che pensavi poteva andare così. Hai capito chi gioca? Credo stia fuori in Vila, e quindi dietro a Kovacic ci siano Kuzmanovic, Obi e Guarin. Credo l'Inter sia questa, Inter con qualità lontanissima nella mediana da quella a cui Mancini era abituato qualche anno fa da Piano Gentile. C'è questa metafora che usa Matteo, che ha scritto 349-238-6666: il derby di questa sera è come due barboni che battagliano per il miglior pezzo di cartone su cui dormire. È un po' triste, traffico. Ah, così Massimo Ferrero, Maligaia, Pagdadi, Saino, As Salat Nig Filipino Mahal Ko Kaigong Lahat Forza Sampdoria. Tutti convocati. Torres, io sono contento comunque, l'ho sempre detto, è chiaro che gli attaccanti vengono giudicati per i gol, ma Torres ha un impegno e dei movimenti che sono congeniali per il nostro modo di giocare, ha un impegno negli allenamenti e in partita ottimo, perché Torres deve essere il giocatore che ci può trascinare ai vertici, per cui insomma mi auguro che sia la sua partita. Credo che Matteo abbia delle grandi qualità tecniche, è un ragazzo giovane, quindi non possiamo neanche pensare che lui possa risolvere le partite sempre, o che non faccia errori, o che non sbagli certe situazioni. Questo è normale che lo faccia, lo farà probabilmente anche nei prossimi mesi, avrà bisogno di molto più tempo per diventare veramente quello che potrà diventare, quindi su questo ci lavoreremo, io lo aiuterò, sicuramente avrà delle grandi chance, è un giocatore che giocando in quel ruolo lì chiaramente deve fare anche tanti gol. Lui ce l'ha perché ha un grande dribbling, ha un bel tiro, e quindi è un giocatore sul quale noi faremo un grande affidamento, però non possiamo neanche dargli tante pressioni pensando che lui possa essere il giocatore che risolve le partite ogni domenica. Oh, brutto segno quando sei il numero 9 di una squadra e il tuo allenatore in conferenza stampa dice che ti impegni in allenamento. Bruttissimo segno. Lo chiediamo ad Aldo Serena, che è stato il numero 9, no, l'11 ieri. Aldo, ciao. Ciao a tutti, ciao a tutti. Bruttissimo segno, eh. Ciao a tutti. Sì, non è una bella cosa quando l'allenatore dice questo. Mi sembra che Torres sia bene sotto il profilo atletico, però debba ritrovare l'istinto del killer, come invece Kovacic se deve andare alla ricerca di questa volontà, di questa determinazione nell'andare a far gol e anche il piacere di farlo per quanto riguarda l'Inter. Il problema è che mi sembra che Torres l'istinto del killer l'abbia smarrito in Inghilterra qualche anno fa. Sì, perché io l'ho visto, guarda, nella partita dal vivo ad Empoli e mi era piaciuto molto, perché sotto il profilo dinamico mi sembra un giocatore che ha lo spunto, è dentro la partita, gli manca quella determinazione, quella volontà, quel desiderio che deve essere famelico per chi gioca lì davanti, altrimenti i gol non li fai se giochi, se fai il compitino. C'è da capire, Pier, se questa sera Torres gioca per convinzione di Inzaghi o per convenienza, perché Inzaghi ha capito benissimo come si resta poi a galla nel Milan, si evitano polemiche, punzecchiature presidenziali. Io non so che idea ti sei fatto tu. No, ma lui sicuramente questa malizia ce l'ha, perché conosce molto bene l'ambiente del Milan e poi perché è anche molto amato, insomma, è anche perché è molto bravo, insomma, cioè stiamo parlando comunque di un uomo di calcio e di campo eccezionale, e quindi io penso che il Milan faccia benissimo a coccolarselo come un possibile, tra l'altro ha fatto bene anche con la Primavera, come un possibile Guardiola, come un possibile allenatore di alto profilo, e ce l'ha in casa, devi crederci, se non lo aspetti e non ci credi sbagli e commetti un errore, no? Su questo non ci sono grandi dubbi, poi ovviamente esiste anche la comunicazione, esiste anche la diplomazia, le frasi su Torres sono frasi assolutamente di buon senso e di diplomazia, insomma non ci sono dubbi che deve dire, speravo che segnasse il triplo di quello che ha segnato, forse anche il quadruplo, questo è ovvio. Volevo chiedere ad Aldo, lui che l'ha vissuto da tutte e due le parti, anche se erano tempi diversi, se ci racconta un po' se c'è una diversità nel vivere il derby da parte di queste due tifoserie, insomma, storicamente. Ma io ho avuto esperienze diverse, in certi momenti l'Inter era anche come società più ricca rispetto al Milan, aveva anche più campioni, e invece dopo il Milan di Berlusconi ha portato un sacco di talenti nella squadra rossonera. E vivere secondo me il derby è simile da entrambe le parti, sono due tifoserie molto coinvolte perché il passato e la storia parlano per queste squadre, hanno vinto, sono due tifoserie esigenti, forse quella dell'Inter un po' di più di quella del Milan è un po' più tollerante, però fino a un certo punto, ecco. Cioè fino a un certo punto significa che poi comunque qualche risposta la vuole vedere. Ad esempio, cosa ti aspetti dal Mancio questa sera? Perché è vero che poi arriva a Milano come salvatore della patria, porta entusiasmo, forse quella scintilla, però è altrettanto vero, Aldo, che da questa sera ha quel piccolo problema, cioè di fare i conti con i risultati del campo. Sì, è vero, derby e poi Roma, non un inizio facile per lui, e soprattutto questa sera sono curioso nell'andare a vedere l'equilibrio di squadra dei nerazzurri, soprattutto con i due esterni nella difesa 4, Dodò e Nagatomo, che abituati a giocare con la difesa 5 e di punto in bianco, ritrovare una condizione diversa, ritrovare un equilibrio diverso, movimenti che non sono quelli, ecco, dovranno sicuramente partecipare, però con un esercizio. Ecco, sotto questo profilo sono molto curioso, c'è un punto di domanda grosso su questo equilibrio di quest'Inter che sembra, con la guida Mancini, votata un po' a comandare il gioco, a cercare di fare la partita. Pier, non credi che uno dei compiti principali di Mancini da qui alla fine sia quello di recuperare due giocatori che l'Inter ha pagato molto, paga molto come stipendio, che fino adesso sono uno totalmente ai margini della rotazione, a Guarin, e l'altro Hernanes, che ancora non si capisce da che parte deve stare in questo progetto? Sicuramente, in un'epoca povera di talento, tutto quello che hai, e comunque questi sono diversi, ma sono due talenti, per quella che è la dimensione del calcio italiano, sono due giocatori importanti, è chiaro che non puoi sprecarlo, quindi riuscire a recuperarli alla causa è fondamentale, non solo dal punto di vista economico evidentemente, perché insomma è ovvio che sono ingaggi relativamente pesanti, ma dal punto di vista strettamente tecnico. Insomma non è l'Inter di Mancini di qualche anno fa, è una squadra evidentemente che deve sfruttare ogni goccia di qualità e di talento che ha a disposizione per riuscire a portare a casa dei risultati quantomeno dignitosi. Su questo non ci sono dubbi, sono due storie diverse secondo me, sono anche due giocatori completamente diversi. Questo è chiaro. Questo che però è chiaro. Per motivi differenti hanno faticato molto a entrare nei meccanismi. È chiaro che se lui sceglie il 4-3-1-2 e dà le chiavi della fantasia a Kovacic, un giocatore come Hernanes, rischia di essere magari un pochino più sacrificato. Sì, il posto non c'è, gli serve un giocatore insomma, diverso, Aldo, davanti alla difesa. E certo, gli serve un giocatore diverso e soprattutto deve infondere quella volontà, quello spirito di gruppo che Hernanes e Guarin forse non hanno. Sono due, sotto il profilo individuale, bravissimi, perché sono tecnico, sanno dribblare, hanno tiro, però ecco, nelle condizioni di una squadra servono anche altre qualità e soprattutto a metà campo c'è da far fatica per far bene le due fasi. Quei due, ecco, se Mancini riuscirà a convertirli alla causa farà una grande cosa. Come li mescoli, Osvaldo, in Icardi e Palacio? Qual è la tua coppia preferita? Beh, due giocano, uno no, e uno anche, ecco, perché non si gioca in 11. No, ma è chiaro, volevo chiedere a Serena qual è la sua coppia preferita nel gioco delle coppie. Io penso che l'Inter non debba fortunatamente puntare su Icardi, perché il nuovo corso di Tuir va in quella direzione, Kovacic-Icardi, quindi Icardi deve giocare da prima punta e Palacio, che è rientrato sotto il profilo della condizione, non sotto il profilo della rete, ma negli ultimi periodi mi sembra un giocatore che si sta ritrovando la condizione. Quei due secondo me sono la coppia dell'Inter, poi dipenderà poi anche dalle condizioni di forma, però in assoluto io vedo quei due, Osvaldo come punta in panchina. Anche perché quelli Mancini dovrà farsi andare bene, gliel'ha spiegato Tuir, ha detto, gli abbiamo spiegato cos'è il fair play finanziario, l'Inter è sotto osservazione UEFA, quindi se Mancini si aspetta a gennaio e a giugno grandi campagne acquisti, probabilmente ha sbagliato. Tu ci credi, Aldo, al mancio aziendalista, cioè sul modello di Allegri, tipico allenatore che si accontenta di quello che gli viene dato? Ma ad inizio avventura probabilmente sì, chiederà comunque qualcosa a gennaio. È un allenatore che ha vinto molto nonostante la giovane carriera da allenatore, è un allenatore ambizioso, è un allenatore che ha avuto squadre di altissimo profilo. Io credo che farà pressione sicuramente da gennaio in poi, all'estate prossima, per avere una squadra più forte di questa. E quantomeno più funzionale, Pier, a quelle che sono le sue idee. Sì, poi se ci riuscirà, questo è chiaramente tutto un altro discorso, anche se al netto di tutte le giuste considerazioni sul fair play finanziario, sul fatto che l'Inter deve darsi una giustata, non è l'unica a doverlo fare, io credo che poi Tuir comunque gli investimenti e la possibilità quantomeno di fare gli investimenti ce l'abbia. Cioè io credo che sia stato un po' sottovalutato e mi sembra un po', alla luce dei fatti, mi sembra un po' ingiusto un certo tipo di percezione di alcuni tifosi dell'Inter, come se questa fosse per forza un'esperienza più grigia, più opaca dal punto di vista economico rispetto al passato. A me sembra che Tuir, almeno rispetto all'ultima fase di Moratti, ovviamente non quella nella quale poteva spendere quanto voleva, sia perfettamente in linea, si è posto l'obiettivo di una gestione particolarmente oculata, ha derogato da questo principio due volte. La prima volta quando ha fatto il sacrificio Hernanes dopo la questione dello scambio saltato, sì. E poi quando ha scelto di mandare via l'unica Mazzarri. Volta che si è messo le mani in tasca è stato quando è stato costretto dalla piazza. Questo è vero, però insomma sinceramente però se ne è messo le mani in tasca, sì, quando è stato messo con le spalle al muro dalla piazza. Ci sono pure quelli che nonostante che succede? Chi suona? Rumori inquietanti. Aldo, come finisce questo derby? Beh, mi aspetto un Milan con tutti gli uomini dietro la linea della palla a chiudere tutti gli spazi e a ripartire velocemente. Dipenderà molto dall'equilibrio di squadra dell'Inter, e che è un punto di domanda perché Mancini è arrivato da poco. Prevedo un derby incerto. Ma derby dominato dalla bad, derby incerto è come rifugiarsi in corner. No, ma derby dominato dalla paura o un derby dove entrambe daranno un'occhiata alla classifica e capiranno che si va avanti solo vincendo? l'Inter proverà a vincere e il Milan cercherà di ripartire, e dipenderà molto appunto dall'equilibrio di squadra dell'Inter, che secondo me con Mancini cercherà di fare la partita e di vincere il derby. Grazie Aldo. Ciao Aldo. Ciao Dito. Grazie Aldo Serena. Ciao Pier. Ciao, ciao. Ma chi lo vince il derby? Pardo. No, dopo. No, l'ha già detto, ha già fatto il pronostico. Cosa avevi detto? Inter, però, visto che per ora ha detto che lo vince l'Inter 2-1, giusto? No? 2-1. Per il Milan questa è una buona notizia. Che cantadori sono, finisce 2-1. Ciao Pier, a domani. Ciao. C'è la pubblicità. Complimenti vivissimi per la vostra capacità di leggere tatticamente le partite in maniera spassionata, agnostica, molto molto esacerbante. Con voi è sempre una ripartenza. Complimenti veramente. Tutti convocati. Hamilton sta per aggiudicarsi, lo farà tra pochissimo, tra pochi secondi, il secondo titolo mondiale della sua carriera. Lewis Hamilton è campione del mondo. Può dirlo soltanto Lewis Hamilton. Hanno reso noiosa anche la gara che doveva decidere il mondiale, il duello Hamilton contro Rosberg, duello durato 100 metri. Il dio dello sport esiste. Grazie al dio dello sport che non ha permesso un ribaltone all'ultima gara, che sarebbe stato pornografico, ti devo dire, Giovanni. Sì, perché... quel doppio punteggio, il jolly da giocare ad Abu Dhabi. Aspetta che coinvolgiamo anche Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao direttore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, sono perfettamente d'accordo, sarebbe stato uno scempio, non esisteva. Hamilton, e fortunatamente ha vinto Hamilton. Certo, se avessero regalato un po' più di suspense, magari sì, saremmo divertiti e non abbioccati durante l'ultimo Gran Premio. Però insomma lo merita Hamilton, 11 vittorie contro 5. L'avesse vinto Rosberg, direttore, era un titolo comprato con i petrodollari, non era un titolo vinto sulla pista. Rosberg, devo dirti che è stato molto bravo in qualifica. In qualifica è andato al di là di quello che erano le aspettative, perché Hamilton è sempre stato reputato un pilota molto veloce. Lui in qualifica è stato più veloce di Hamilton, però poi in gara ha avuto qualche errore in più, qualche titubanza in più, come oggi in partenza. Poi oggi dopo 5 secondi la gara è finita, perché con Hamilton che andava via poi sono arrivati anche i problemi alla macchina di Rosberg. Però alla fine credo che in un mondiale noioso, per chi non tifava Mercedes, per chi non guidava una Mercedes, ha vinto il migliore pilota in pista. Io credo che con Alonso sia il miglior pilota 11 a 5, e hanno messo anche a zittire Hamilton tutti i dietrologi che più o meno a metà stagione erano pronti a dire, e lo dicevano e lo scrivevano, che alla Mercedes interessava far vincere il tedesco, che avrebbero fatto di tutto per far perdere questo titolo ad Hamilton. Alla fine ha vinto Hamilton, impareremo a fidarci un po' di più della Formula 1, anche se i precedenti non deponevano del tutto a favore di questo sport. Direttore. Sì, ci sono stati tanti giochi di squadra, insomma, lo abbiamo visto anche noi italiani con la Ferrari, insomma, però questa volta la cosa bella della Mercedes è stata che li ha fatti lottare uno contro l'altro per tutto il Gran Premio, perché se avessero deciso all'inizio a chi far vincere il mondiale ci saremmo annoiati ancora di più, insomma. Tu metti una Mercedes formato Ferrari di qualche anno fa, quando vinceva Schumacher e l'altro doveva spostarsi per farlo vincere, quando dei dubbi, cioè sarebbe stata veramente una noia ancora più terribile di quella che invece poi in fin dei conti il duello tra i due invece è rimasto vivo fino alla partenza di oggi. Hamilton, come lo collochiamo? Secondo titolo mondiale, arriva dopo i 4 di Vettel. Che cos'è? Gran pilota, è un campione, è un uomo che si è trovato al posto giusto, al momento giusto. No, Hamilton è un campione, è uno di quelli che ha qualcosa di più, che riesce a dare alla macchina qualcosa in più. Oggi, secondo me, con Alonso sono i due migliori piloti in circolazione, in attività. Nell'era moderna è sicuramente un pilota straordinario, ha vinto tanto, una percentuale di vittorie rispetto alle gare disputate altissimo, ha un'ottima percentuale anche in qualifica, che quest'anno Rosberg gli ha rosicchiato un po'. Sicuramente un gran pilota e merita il titolo mondiale. Sì, grandissimo pilota, sono perfettamente d'accordo col direttore. Cioè, lui, Alonso è il più bravo di tutti, Hamilton è il secondo in classifica. Quanto ad Alonso, solita gara Ferrari per non pervenuta, Ferrari si poteva superata in rettilineo un modo da migliore, tutti, credo anche dalla Force India, di chiudere una storia importante, o forse no, perché alla Ferrari mi sembra si siano davvero pochissime idee e tutte terribilmente confuse. Si poteva chiudere, il problema della Ferrari è che mi sembra che quest'anno abbia fatto più cambiamenti in squadra che punti, o quasi, insomma, perché da aprile ad oggi è cambiato tutto, due volte addirittura responsabile della gestione sportiva, il presidente, il primo pilota. È stata la peggior annata dell'era moderna, la peggior annata dal, credo dal 91-92 in poi, dal 92 in poi, e purtroppo non è che diciamo adesso si cambia tutto, l'anno prossimo la Ferrari torna a vincere, purtroppo l'onda di questa sconfitta sarà lunga, perché il gap dal punto di vista motoristico accumulato è enorme e non basteranno i pochi aggiustamenti che si possono fare per regolamento per colmare il gap, quindi la Ferrari potrà ridurlo, ma difficilmente l'anno prossimo potrà andare in pista per vincere il mondiale. Questo purtroppo è inutile che ci illudiamo adesso come adesso, anche se arriverà Vettel magari motivato con tanta voglia di fare, però un pilota con una macchina molto più lenta non fa la differenza. Sì, bisogna capire anche come gli spiegheranno che a Maranello non troverà l'uomo che l'ha ingaggiato, l'uomo che è andato a casa sua. La storia di Vettel è straordinaria, perché il primo uomo che lo contattò fu Domenicali, sparito. Il primo presidente che lui ha incontrato a Maranello e anche a casa del presidente è stato Montezemolo, sparito. L'uomo che gli ha fatto firmare il contratto, Mattiacci, sparito. Adesso si ritrova, arriva bene, che lui non ha mai incontrato, pur essendo un uomo, arriva bene, che ha più di 20 anni circola nel mondo della Formula 1, però lui ha sempre avuto sponsorizzazioni tabaccaie diverse e quindi non l'ha mai incontrato sulla sua strada, per cui avrà forse capito dove va a finire già nei primi giorni. Insomma. Sì, cioè, non è un bel modo di partire, non è una bella cartolina. Non è una bella cartolina, sicuramente, perché ci mancava il gap, però adesso speriamo che nei prossimi ore, nei prossimi giorni venga scritto l'organigramma definitivo e che si lavori su questo, perché non è cambiando ogni due mesi gli uomini che si può costruire la squadra per rimontare l'anno prossimo e poi nel 2016. Si può chiedere ad Arriva Bene, come sappiamo, manager della Philip Morris, è un ruolo abbastanza enigmatico questo della... Ma sai, il ruolo del team principale, una gestione sportiva non necessariamente è un uomo che deve sapere di corse, mentre Arriva Bene lo sa, insomma, uno degli più vincenti negli ultimi anni è stato Flavio Briatore, che di auto non ha mai capito assolutamente un tubo, come dice lui, penso, non è che lo vogliamo prendere in giro, però sapeva mettere gli uomini giusti al posto giusto. Arriva Bene è uno che il mondo della Formula 1 lo conosce, perché lo bazzica da 20 anni, conosce i tecnici, conosce, io spero che abbia il budget per poter vincere i migliori tecnici a venire a Maranello, e questa è un'operazione che devo dire aveva già cominciato Mattiacci. Ma Mattiacci cosa paga? Se ha assunto una cinquantina di tecnici, questo dobbiamo capire, cosa paga? Perché non è chiaro che cosa paghi Mattiacci, io non l'ho ancora capito e non c'è nessuno che mi dia una risposta vera su che cosa paga Mattiacci, perché ti viene da pensare che ma allora Marchionne non voleva tenere Alonso, no, Marchionne è uno che ha dato l'ok a questa all'operazione piloti, quindi non è chiaro che cosa paghi Mattiacci. Alonso velenoso ieri su Mattiacci, immagino, ma anche su Marchionne. È venuta dopo quella frase di Alonso. Sicuramente Arriva Bene è un uomo molto vicino ad Andrea Agnelli, è l'uomo che ha fatto fare le prime esperienze internazionali ad Andrea Agnelli quando diventò un uomo per il marketing Philip Morris in Formula 1, è seduto nel consiglio d'amministrazione della Juventus. Andrea Agnelli e John Elkann sono gli uomini che avranno in mano la Ferrari nei prossimi anni dopo la quotazione in borsa, però non si capisce che cosa ha portato all'esonero di Mattiacci, perché neanche Zampardini credo l'avrebbe esonerato. Sì, sette mesi alla guida della Ferrari non è poco, è niente, sì. per poter giudicare il lavoro di un manager, e poi qualcuno prima o poi magari chiederà a Marchionne di stare un po' più vicino alla Ferrari. Era l'uomo chiamato dal presidente Urruscio, sì, in un momento in cui quello che conta davvero è la battaglia politica, provare a cambiare la le regole. La battaglia politica lui stava lavorando bene, arriva bene dal punto di vista politico, può lavorare bene, l'importante però adesso sarà mettere gli uomini giusti che stiano a Maranello, perché la Ferrari è abituata ad avere un presidente negli ultimi anni sempre presente a Maranello. Marchionne è più in volo che a Maranello sicuramente, quindi ci sarà bisogno di una guida tecnica molto forte, si parla anche di un affiancamento di Ross Brawn, arriva bene, non ancora confermato, anche perché Ross Brawn non ha voglia di lasciare i suoi fiumi, la sua canna da pesca per stare 24 ore al giorno a Maranello, però allora avrebbe un senso tutto ciò, perché hai un manager e hai un grosso capo dal punto di vista tecnico che sa di Formula 1 e sa come far muovere i tecnici, allora avrebbe un senso una ricostruzione di questo tipo. Però dobbiamo capire esattamente e dalle spiegazioni dei prossimi giorni, anche perché sono curioso di capire se Mattiacci verrà rimesso dov'era o se verrà estromesso proprio dalla FCA, cioè dall'azienda Fiat. Allora la cosa assumerebbe delle proporzioni più grandi, perché lui è stato negli Stati Uniti e in Cina un manager importante per la Ferrari, dai numeri che sono stati raccolti sì. In quei paesi. Per numeri a livello economico, industriale, economico, ovviamente non sportivo, si sarebbe giocato tutto in 7 mesi a Maranello. Triste destino. Grazie direttore. Grazie direttore. A voi, buon derby, buona serata. Chi lo vince? È andato. Chi lo vince da buon milanista è scappato. Volevo sapere. Aspetta che lo chiediamo a Stefano Meloccaro. Ciao Stefano. Ciao, buonasera. Chi lo vince il derby? Sì, lo vince l'Inter. Interessato. Dai, interessato. Sì, no, ma solo per il fattore sorpresa Roberto Mancini, capito? Che di là gli tremano le gambe da quando l'hanno saputo. Questo è la sensazione che ho avuto anch'io, caro Stio. Sì. E invece il fattore Mirka, inteso come la signora Federer, non ha impedito alla Svizzera di alzare la prima Coppa Davis. Ragazzi, ma quando ci siamo sentiti a inizio settimana, che cosa aveva detto lo zio Stefanino? Ha detto: guardate, se Roger lascia la signora a casa non ci sono problemi, l'ha lasciata per una volta a casa e abbiamo risolto tutte le questioni. Non c'erano quote sul fatto che riuscisse a lasciare la moglie a casa. Re Federer mancava la Coppa Davis. Oggi è arrivato, ho fatto in tempo a vedere l'ultimo punto meraviglioso con una palla smorzata, quasi stesse giocando in allenamento. Se avessi visto i precedenti sarebbero stati più o meno simili, nel senso che non c'è stata partita, e incuriosiscono un po' di cose, nel senso la scelta di Gasquet forse, ma evidentemente insomma noi parliamo da esterni. Se il capitano francese ha fatto giocare Gasquet avrà avuto, come si dice in questi casi, i suoi buoni motivi. Certo che Gasquet ieri ha fatto una pessima figura in doppio, oggi non l'ha strusciata mai in singolo, vabbè, qualche punto interrogativo rimane. E poi molto bella la scena finale dopo quella volée, quando lui si sdraia per terra, non è una cosa che si vede tutti i giorni, Federer commosso, insomma quasi avesse vinto un altro slam, no? E va detto che a domanda risponde: non sono contento non tanto per me quanto per tutta questa gente, cioè per tutti i suoi supporters, per tutti gli svizzeri, non solo felici, cioè, mi pare che non ha detto per bella... anche per la mia signora, non l'ha detto però, no, quello non mi pare abbia pronunciato parole, non so neanche se vanno a cena stasera tutti insieme, Barbica, Vrinca, Federer, non lo so, ma probabile che sì, però io vi posso dire una cosa a proposito della storia di Mirka, che da noi interessa più della storia tennistica di Federer, ovviamente. Me la descrivono chi la conosce molto bene, perché è invitato in forma privata a casa Federer, me la descrive come assai migliore di come la descrivono tutti i media e tutti quelli del mondo del tennis, che sono molto gelosi di Federer e vorrebbero esserselo sposati loro. Un po' meno arcigna è così, cioè il mondo del tennis è talmente geloso di questo qui che la domanda che è, ma di tante belle donne proprio quella si doveva sposare, capito? Capita. Ti posso chiedere un minuto di pazienza, c'è il traffico, poi siccome ci interessa anche la storia di Federer, io ho una domanda da fare, e cioè se alzata anche la Coppa Davis possiamo considerare Federer il numero uno di sempre a questo punto. Tutti convocati. Io la domanda ce l'ho lì, se Federer, arrivato ad alzare finalmente per la prima volta nella sua carriera e per la prima volta nella storia della Svizzera la Coppa Davis, può essere ufficialmente oggi dichiarato il numero uno di sempre, Stefano Meloccaro? Allora, nei nostri cuori lo è, perché noi siamo tutti rogeriani e dunque ci piace molto pensare di avere vissuto nell'epoca del migliore di ogni epoca. In realtà i grandi che hanno scritto la storia del giornalismo di questo sport, mi viene in mente Rino Tommasi, ma ce ne sono anche tanti altri, sostengono che sia una cosa abbastanza sciocca, tra virgolette, andare a cercare il migliore di ogni epoca, perché ognuno va inquadrato nell'epoca in cui è. Certo che io personalmente, anche consultando i filmati e le foto d'epoca, uno che gioca a tennis meglio di Roger Federer non l'ho mai visto. È un personaggio migliore di lui come simbolo universale dello sport. Poi, detto questo, ognuno ha il suo preferito e probabilmente è giusto così. A questo punto gli resta soltanto l'oro olimpico in singolare. Ecco, vediamo. Qualcosa gli manca, deve tirare fino al 2016. Mi sembra che le motivazioni non gli facciano difetto. No, ma lui ha una grande passione per il tennis, gli piace proprio, gli piace competere, gli piace vincere, gli piace gareggiare, gli piace l'atmosfera pre e post, per cui tutti i problemi ha meno che quello delle motivazioni, assolutamente, le trova e le troverà perlomeno fino a Rio 2016, poi vediamo. Questo è il segreto di tutti i grandissimi, cioè amare profondamente il gioco che fanno, e non è una questione di soldi, non è una questione di vittorie, non è una questione di tutte queste cose, ma tutti i grandissimi, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, chi vuoi tu, sì, 33 anni di un tennista cosa equivalgono di un calciatore, di un altro atleta di alto livello? Perché 33 anni un tennista, stiamo parlando comunque di uno che ha già tirato lunga la sua carriera. Bene fisicamente, non ha mai avuto infortuni grandissimi, è molto leggero e non fatica a restare leggero fisicamente, ha una muscolatura che è baciata dal Signore e dagli dèi, perché è molto sottile, non ha masse muscolari grandi, per cui massa muscolare piccola si infortuna meno, è leggerissimo sul campo, francamente non lo so, credo che abbia, dimostri biologicamente, un 4-5 anni meno di quelli che ha. La questione è soltanto nella testa, cioè nelle motivazioni che lui potrà trovare, quelle che gli potrà dare la signora Mirka, che come abbiamo visto gliene dà già moltissime e le dà anche a tutti noi. E ci darà da parlare almeno fino al 2016. Grazie, ma Stefano. Sì, sì, anche dopo, voi, noi siamo qui anche dopo. Ma noi speriamo per sempre, perché ci divertiamo come dei pazzi, no? Ma guarda, senza di lei la vita non sarebbe la stessa, sì, né quella di Federer né la nostra, neanche quella di Wawrinka. Io dico più Mirka per tutti, più Mirka per tutti. Neanche quella di Wawrinka, dice giustamente il dottor Capuano, neanche quella di Wawrinka. Pensa Wawrinka come torna a casa da Lille questa sera. Dice, finalmente finita. No, guarda che ha giocato, Wawrinka ha giocato bene. Beh, ha giocato forte. Esce da trionfatore, tanto quanto l'altro. Poi dopo le loro cose private se le vedono. Quando non c'è quell'altro che dice, ma tanto non hai le palle per battere mio marittino, sì. Non ce l'ha. Si troveranno in un campetto di periferia. La sceneggiata svizzera se la vedono tra loro, capito? Quest'uomo appartiene a me, questa donna tu non la devi toccare, però in dialetto svizzero, capito? Grazie, ciao, Stefano. Grazie. Ciao ragazzi, a presto. Ciao. Dobbiamo trovarlo il dialetto svizzero, mi viene in mente Gervasoni Rezzonico, chiedere ad Aldo Giovanni e Giacomo. Qualche messaggio degli amici da casa. C'è chi dice: beh, Briatore è stata un'eccezione, la regola è che a comandare i team devi metterci qualcuno che ci capisca di Formula 1. È vero, gli altri hanno comunque qualcuno che guida e che ha avuto un passato anche tecnico in Formula 1, ma quel ruolo lì però guarda che è un ruolo in cui servono persone carismatiche che capiscono, come dice sempre Briatore, forse più di uomini che di motori. Guarda che non. Sì, il problema è, secondo me ha ragione Gaetano Da Luca, in questo momento mancano idee alla Ferrari e le poche che ci sono sono confuse. Sono un po' confuse. Io ho letto questa settimana, pubblicato da Repubblica, il nostro amico Marco Mensurati, un report che dice: alla Mercedes hanno in mano un documento secondo cui possono dominare fino al 2020. Se non cambiano le regole, io temo ci porteremo avanti questa noia almeno l'anno prossimo, sicuramente, neanche alla Mercedes. E poi vedremo. Ultime invece sul derby, le probabili formazioni: Inter che dovrebbe essere confermata con Guarin, Kuzmanovic e Obi sulla mediana, con Kovacic dietro le due punte, Palacio e Icardi che avrebbe vinto il ballottaggio che si è aperto ieri con Osvaldo. Nel Milan invece c'è Rami terzino destro, Zapata e Mexes centrali perché manca Alex, e poi a metà campo ci sono Essien, Muntari, Bonaventura e poi Menez, El Shaarawy e Torres. Questo è il Milan che sicuramente più piace a Berlusconi. Non so se sposta più il fattore Mancini o quella difesa lì del Milan. Sì, sono due fattori che Inter e Milan insieme ne hanno presi 30 comunque, ne hanno presi 30. Chi è? Pronto? Pronto? Eccomi, sono qua. Mentre voi state parlando di automobilismo e di tennis, eccomi puntuale come un orologio svizzero. Facciamo il pronostico a prescindere. Facciamo il pronostico sul derby. Il derby. Inter-Milan. Milan-Inter, anzi. Stasera vince il Milan. Oh, io immagino eserciti di milanisti che stanno facendo, si toccano, dove non batte il sole. Sì. Ecco, esatto. Beh, se si toccano dove non batte il sole, ma batte l'Inter. Il Milan sì, batte l'Inter. No, ma si intendeva che scaramanticamente fanno gesti. Va bene, allora vince il Milan e lo vince, che è il match winner. Allora, vince assolutamente, assolutamente il Milan, non c'è possibilità di sbagliare. Tu mi chiedi chi è il match winner. Sì, chi fa il gol. Allora, il match winner, indipendentemente da quello che sarà il gol, la mossa vincente è Kučka. Gioca nel Genoa. Magari a gennaio giocherà nel Milan. No, gioca nel Genoa Kučka. Ah sì? Sì. Vabbè, adesso vi sorprenderò a prescindere. I giocatori importanti, dai, lasciamo stare il match winner. Allora, questa sera potrebbero essere decisivi due giocatori delle retrovie. Sì. Allora, Bonera per il Milan e Medel per l'Inter. Bonera e Medel non gioca perché è squalificato. Bonera credo anche. Ah sì? Sì. Beh, due disgrazie in meno. Sì. Sicuramente i match winner saranno De Jong per i rossoneri e Jonathan per i nerazzurri. Sì, che non giocano nemmeno loro, sono infortunati. Ah sì? Sì. Cazzo, ma questi milanesi non ce n'è uno che sta in piedi. E mi sa che i presidenti a gennaio dovranno comperare soprattutto il tunisino. Sì, è indonesiano. Non sbagliamo, sì. Ma non è che siano no, ciao Serse, ciao. Comunque teniamo buono, ciao, teniamo buono che ha detto che vince il Milan. Sì. Il nostro Andron Mercu. Sì? Noi i nostri pronostici li abbiamo fatti venerdì e restiamo fermi e non cambiamo. No. Ciao Carlo. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Un ringraziamento anche a Laura Vanossi in redazione, Valeria Bernardi, Roberto Scaltritti in regia. Noi ci rivediamo con tutti i convocati weekend domenica a partire dalle 17, mentre domani torna dopo il GR delle 14 tutti convocati. Ciao.